Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, cominciamo oggi con un libro che ci vuole dare un po' di ottimismo o che almeno ci richiama a un po' di sano realismo anche per affrontare la crisi che continua a mordere. Vi segnalo allora il libro di un giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, intitolato Basta piangere, storia di un'Italia che non si lamentava. Basta piangere al punto esclamativo per sottolineare il messaggio che questo libro vuol trasmettere, pubblicato da Mondadori, 138 pagine, 14,90 €. L'autore è stufo delle lamentazioni continue e soprattutto della nostalgia che diventa spesso un'autentica venerazione per il passato e scrive, aprendo il suo libro, «Non ho nessuna nostalgia del tempo perduto, non era meglio allora, è meglio adesso. Un adolescente dell'Italia di oggi è l'uomo più fortunato della storia, anche se nato in una famiglia impoverita dalla crisi, ha infinitamente più cose e più opportunità di un ragazzo di qualsiasi generazione cresciuta nel Novecento». E allora il libro segue un doppio registro. Abbiamo una ricostruzione di com'era la vita di un giovane negli anni 60, Cazzullo della classe 1966, con la televisione in bianco e nero, il telefono fisso, scarse possibilità di viaggiare, il sostanziale isolamento dal mondo e i progressi che si sono verificati da allora, con tutti i problemi naturalmente che questi progressi hanno comportato e comportano. E allora il bilancio è tutt'altro che da buttare, considerando anche il ricordo di quegli anni. Cazzullo per esempio sottolinea il fatto che ai suoi tempi le scuole potevano essere anche delle ottime scuole, scrive, il liceo era bellissimo, al classico studiavamo quasi solo italiano, latino e greco, ma li studiavamo seriamente, la cultura classica ci aprì gli orizzonti dell'epica, della lirica, della filosofia e così via. I primi destinatari del libro dunque sono i giovani d'oggi, che nostalgie non ne hanno, ma che sembrano paralizzati dalla paura a impegnarsi e a scommettere su se stessi e piuttosto propensi a cercare più una protezione che non a studiare e a lavorare sodo. Per questo il libro si conclude con queste parole: i giovani italiani devono capire che l'autocommiserazione non serve a nulla e le vecchie scorciatoie non funzionano. Per trovare lavoro devono studiare di più, prepararsi meglio, formarsi con maggiore sforzo e, se necessario, sacrificarsi. Ma proprio su questo sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Aldo Cazzullo. Buonasera Salvatore a tutti gli ascoltatori. Aldo Cazzullo, allora, questo suo libro è un libro contro la cultura del piagnisteo, lei riprende una celebre espressione. Quanto è diffusa questa cultura nel nostro paese? Mi fa piacere che lei abbia colto questo punto. Io non è un attacco ai giovani, è un attacco ai piagnistei, cui qualche volta i giovani un po' si abbandonano. È una cultura purtroppo molto radicata. E siamo qui che aspettiamo che passi la nuttata, l'aspettiamo piangendo che arrivi l'alba, ma l'alba la dobbiamo costruire noi, la nuttata non passa da sola. La crisi italiana è una crisi di fiducia, la gente si tiene i soldi, non spende, non consuma, le aziende non fanno fatica a trovare coraggio di investire, di innovare, di rischiare. Dobbiamo ripristinare questa fiducia e dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che le difficoltà grandi che loro incontrano sono state già superate, forse anche in forma anche più drammatiche dai padri e dai nonni, e quell'energia che i padri e i nonni avevano, così come io riconosco i loro tratti, i tratti dei miei nonni, dei miei figli, sono convinto che anche quella forza morale non è andata perduta e la possiamo risvegliare, però il piagnisteo è inutile, anzi controproducente. Ecco, lei appunto fa una carrellata nella storia d'Italia degli ultimi decenni, a un certo punto si sofferma sugli anni 70 e li definisce come anni nei quali il paese era molto più semplice e meno viziato, quindi noi siamo lamentosi e viziati. Ma intanto se i figli sono troppo viziati la colpa non è loro ma nostra, di noi genitori, mi ci metto io per primo. Sembriamo quasi dei nonni, nel senso che cerchiamo di prevenire i loro desideri. Se tu vai davanti a un liceo romano, milanese, o palermitano o torinese, non c'è una bicicletta, hanno tutti lo scooter, la macchinina o il papà che li porta in macchina. Noi abbiamo vissuto un'Italia più semplice e più povera, piena di problemi, anche più gravi di quelli di oggi. L'Italia era un paese più violento, c'era il terrorismo nero, il terrorismo rosso, i sequestri di persona. Era un paese più inquinato, ciminiere in città, acciaierie in riva al mare, nubi tossiche come a Seveso. Era un paese più maschilista. In tanti settori sociali si dava per scontato che la donna dovesse stare a casa. Il femminicidio non è che non accadeva, non faceva neanche notizia, ancora negli anni 60, uno tornava a casa, trovava la moglie con un altro, la uccideva, non finiva neanche in galera, era delitto d'onore. Non era un paese migliore di quello di oggi. Oggi abbiamo molte più opportunità, anche il mondo offre più opportunità. La Spagna, quando ho cominciato io a seguire la politica, la vita pubblica, la Spagna non era il paradiso delle vacanze, era una dittatura dove si garrottavano gli oppositori. Nel 76, mi ricordo, la morte di Mao, 600 milioni di contadini cinesi in lacrime, che mangiavano riso quando ce n'era, giravano in bicicletta. Oggi in Cina ci sono 600 milioni di potenziali consumatori dei nostri prodotti. gente che guarda l'Italia come la patria delle cose buone e delle cose belle. E questa grande domanda che di Italia che c'è nel mondo è soddisfatta molto spesso da prodotti che non sono italiani. Noi siamo qua a piangersi addosso e intanto perdiamo 60 miliardi di euro ogni anno solo di falsi parmigiani o di false mozzarella, per tacere di lampade, mobili, scarpe, design. Ecco, e per questo voglio dire, ragazzi, diamoci da fare, perché l'Italia non è un paese sbagliato, è un paese straordinario, che ha vizi da estirpare e scandali da denunciare, ma è il nostro paese, non potremo mai averne un altro. Per questo io chiudo il libro proponendo, non diciamo più questo paese, come se fosse una cosa che non ci riguarda, come se l'Italia fosse altro rispetto a noi. Diciamo piuttosto nostro paese. Fermiamoci un momento sugli anni 70. Lei li definisce gli anni nei quali le due Italie si sono cominciate a conoscere, a capire meglio, grazie anche ai flussi migratori, ma soprattutto anche grazie alle persone che andavano nel sud per conoscerlo, per tornare magari alle origini, con un po' di benessere in più. Che cosa ha rappresentato questa svolta, questo passaggio in Italia? Beh sì, perché per i ragazzi del sud la scoperta del nord era inevitabile con l'immigrazione, però appunto negli anni 70 tanti ragazzi si mettono in moto dal nord verso sud. A me è successo proprio da bambino, perché avevo in famiglia un immigrato al contrario, mio zio Piero, il fratello di mio padre, era andato da Alba ad Avellino ad aprire il primo stabilimento della Ferrero, perché erano finite le nocciole delle langhe, non bastavano più per fare la Nutella, bisognava avere quelle degli irpini. Fu salutato come un missionario in partenza per terre incognite, no? Ixunt Leones. Ci trovò benissimo, tant'è che è rimasto là e mia cugina Rossella parla come demita. E noi andammo a trovarlo e scoprimmo un'Italia che certo era più colorata, era più calorosa. Mi ricordo quando con la Fulvia del nonno rimanemmo bloccati nei vicoli di Napoli e con delle retromarce paurose incoraggiate dai napoletani che si divertivano un sacco a cercare poi di aiutarci, a districarci. Però insomma, alla fine poi si capiva già che le due Italie in fondo si assomigliavano più di quello che pensavano. La mescolanza era già cominciata. E io sono convinto che gli italiani, nei loro vizi come nella loro virtù, un pochettino si assomigliano. Diffidiamo dello Stato e della politica, però abbiamo grande capacità di risolvere i problemi e di dare il meglio di noi stessi nei momenti difficili. E siccome questo è un momento molto difficile, è il momento anche di dare il meglio di noi stessi al sud come al nord, perché poi dalla crisi o usciamo tutti insieme o non usciamo. Poi vengono gli anni 80, gli anni nei quali per l'ultima volta siamo stati felici, lei scrive intitolando un capitolo, anni di cui lei rivaluta il ricordo. Ecco, a suo parere, per quale ragione quegli anni sono così criticati nell'immaginario collettivo, almeno nell'immaginario degli intellettuali? Ma confesso, io pur non essendo un intellettuale, pur essendo un cronista di strada, anch'io li ho sempre criticati, un po' perché ho dei ricordi personali non bellissimi. Sabrina Salerno, il cui segreto del cui successo non era la voce, Nick Cayman, Sandy Martin, di cui si diceva che si chiamasse era tale Sandro Martone, questa musica era un po' facile da discoteca, il cubo di Rubik che ci faceva impazzire, il Subbuteo, il Risico, non ho dei ricordi così esaltanti di quegli anni, però è anche vero che furono gli ultimi anni in cui l'Italia andava verso il più anziché verso il meno, in cui l'Italia cresceva, ci si lasciava alle spalle gli anni di piombo, anche se è vero che negli anni 70 i giovani pensavano che si potesse essere felici soltanto tutti insieme, cosa che si è rivelata un'illusione. Negli anni 80 noi ragazzi dell'epoca pensavamo di poter essere felici soltanto ognuno per nostro conto. E se il paese comunque ha cambiato umore, la vittoria mondiale dell'82, la febbre del sabato sera, la nostra generazione è cresciuta con questa logica un po' individualista. Secondo me alla fine poi non è riuscita a incidere come avrebbe potuto. Noi non siamo male come generazione, abbiamo fatto studi rigorosi, abbiamo letto i classici, abbiamo letto Pinocchio, il Libro Cuore, Salgari, poi i grandi russi, i grandi francesi, forse abbiamo letto più libri di quelli che sono venuti dopo di noi, però non essendo capaci di fare rete, di fare squadra e anche di riconoscere delle leadership, dote che i trentenni hanno dei leader. Matteo Renzi è un leader, ma anche l'Apple Can per qualcuno o Roberto Saviano per altri sono leader generazionali. Noi invece siamo una generazione più disunita ed è il momento, invece, siccome siamo ancora in tempo, secondo me, a prenderci le nostre responsabilità, è il momento di fare per una volta nella vita anche noi di fare squadra. Grazie ad Aldo Cazzullo, autore di Basta piangere. Buona serata. Grazie a voi. L'esempio di un'Italia che funziona, soprattutto se non ci si lamenta troppo, anche per l'ammirazione che ha suscitato in tutto il mondo questa esperienza, è quella di una grande istituzione culturale milanese, la Triennale, la cui storia recente troviamo nel libro Intervista al suo ex presidente Davide Rampello, che si intitola La mia Triennale, cronache di una ribellione. Il libro è scritto con Martin Angioni e pubblicato da Schirà, 70 pagine, 24 euro. Rampello, alla cui nomina in triennale devo dire contribuì anch'io, è stato presidente di quell'istituzione dal 2004 al 2011 ed è stato l'artefice del grande slancio che il nuovo gruppo dirigente sembra imprimere a quella gloriosa istituzione, la cui attività si è progressivamente allargato a quello dell'arte e della cultura contemporanea, dalle originali competenze piuttosto ristrette agli ambiti dell'architettura e del design. E proprio in questi anni, negli anni di Rampello, per esempio, che la triennale dà vita al Museo del Design con una formula di esposizione a rotazione molto originale che ha comportato anche un intervento architettonico di Michele De Lucchi negli spazi storici che erano stati disegnati da Giovanni Muzio. Ma questa non è una semplice ricostruzione degli anni di Rampello, ma l'esperienza sul campo che dimostra come sia possibile gestire in modo innovativo anche le grandi istituzioni culturali. Perciò Rampello scrive che la triennale e la biennale di Venezia hanno saputo restare non solo al passo con i tempi, ma sviluppare una visione forte, diventare quindi luoghi di riferimento e propulsivi dove si rappresenta il meglio del nostro paese, dove il meglio del nostro paese entra in contatto con il resto del mondo. E tanto più importante questa esperienza, quanto meno confortante è il panorama circostante. Rampello aggiunge: il paese è invecchiato, si è fermato, guarda solo al suo passato, passa il tempo a difendersi e la politica non riesce più a esprimere una visione forte, unitaria, cioè una politica con la P maiuscola, come vedete, echi che riecheggiano anche i temi sollevati da Cazzullo. E proprio da questo nasce quello che probabilmente è l'aspetto più indiscusso della rivoluzionaria esperienza che in quegli anni ha vissuto la triennale, cioè il tentativo, che Rampello difende nel libro, di internazionalizzare la cultura italiana attraverso la presenza dell'istituzione milanese in diverse sedi straniere. Rampello ci ha provato in Corea, Giappone, Cina e a New York. E proprio questo aspetto difende al termine del libro in una di alcune testimonianze Germano Celant, scrivendo che in un momento di mondializzazione il rinchiudersi sul proprio ombelico culturale e sulla propria territorialità linguistica sia un errore che è destinato a far perdere ogni funzione propulsiva alla triennale. Quindi in bocca al lupo a quell'istituzione perché continuino i suoi successi. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ricordiamo adesso uno dei grandi autori del Novecento italiano, Carlo Emilio Gadda, di cui giovedì 14 ricorre il 120° anniversario della nascita. E lo ricordiamo con le sue stesse righe contenute nel volume Un gomitolo di concause, lettere a Pietro citati tra il 1957 e il 1969, pubblicate da Adelphi, 240 pagine, 14 euro. Gadda, milanese di nascita, era approdato a Roma nel 1950 per lavorare, l'avrebbe fatto fino al 1955 in Rai, e proprio a Roma nel 1957 pubblica una delle opere più importanti della sua produzione della letteratura italiana del Novecento, cioè Il pasticciaccio brutto di via Merulana. Gadda all'epoca è conteso da due editori, Einaudi e Garzanti, il quale ultimo prevale con una cifra per il tempo importante di 800.000 euro, e Gadda ha quasi scrupolo di questa cifra. A un certo punto lui stesso scrive a proposito di questa cifra, la indica come argomenti non del tutto inefficaci anche per un'anima eletta come la mia, anima insediata per ora in un corpo nutricato a pane, insomma, anche gli scrittori devono mangiare. E lo assisterà presso la Garzanti un giovane editor, come lo chiameremmo oggi, poi a sua volta diventato un grande popolare scrittore, cioè Pietro Citati, che conquista subito il timido ingegnere che lo promuove col titolo di solerte coadiutore e anzi, con tono ironicamente burocratico, lo riconoscerà con queste parole: mi è stato ed è di valido aiuto, anche esercitando giudizio censore ed eliminatore, il dottor Citati Pietro. Questo ruolo andrà molto oltre la semplice collaborazione editoriale. Infatti scrive Citati che per certi aspetti mi aveva eletto suo padre, io ero infinitamente più giovane di lui, mi chiedeva consiglio per tutte le cose della vita, le tasse, la domestica, il cibo, l'editore, il rapporto con gli scrittori e tutti gli esseri umani. Di Gadda mi occupai molto. Quindi queste lettere diventano esemplari per far conoscere meglio un autore complessato e geniale come Gadda, che qui mette a nudo tutte le sue fobie, le sue timidezze. Le lettere addirittura avrebbero dovuto essere distrutte, ma meno male che Citati non ha eseguito questa disposizione, perché la prova che abbiamo della grandezza di Gadda ne esce sicuramente rafforzata. Vi propongo dal libro queste righe sull'editore, sulle difficoltà di conciliare l'arte col mercato, righe che hanno ancora una loro grande attualità. Quanto alle lodi e alla campagna di stampa, non so se sia stata interamente promossa da Garzanti e non credo che tutti gli articoli favorevoli siano stati imposti da lui. È probabile che ne abbia incoraggiato uno o due sui suoi, per modo di dire, periodici, eventualmente a mezzo PB. Il chiasso è un fenomeno dell'epoca attuale, determinato soprattutto dall'inderogabile necessità di vincere il chiasso altrui, di superare acusticamente, spazialmente, fotograficamente, la grida elaudante, le poppe della Lollo e lo sguardo sexy della Sofia. Io non posso competere, quanto a culo, né con l'una né con l'altra. Ma se il pesciarolo non urla più del pesciarolo concorrente sulla piazza, rimane col merlano in mano. Merlano, francesismo per merlan, è vocabolo dei cuochi e trattori per dire il merluzzetto fresco e intero. Bisogna che l'anima severa si renda conto di questo. L'editore deve cavare le spese, ripagarsi delle spese. È legittimo, è giusto. Deve strombettare. Non c'è nessuna legge umana o divina che ingiunga di dormire sonni fiorentini o romani e di perdere il suo denaro. Io non posso proibirgli la propaganda, anche se il mio desiderio e il mio gusto, lei lo sa, è quello della riservatezza, dei 25 lettori. E la diffidenza di Gadda per la pubblicità era anche giustificata, oltre che dal suo carattere, dalla severità con la quale lo scrittore giudicava se stesso. Severità testimoniata dalle parole che vi propongo, tratte da un'intervista a Rai 1 dell'epoca. Il giudizio che io faccio delle mie opere non è quello che viene fatto dai critici o dai competenti. In genere è un giudizio più severo di me stesso e del mio lavoro. In quegli stessi anni viveva a Roma una grande giornalista e scrittrice tedesca, Ingeborg Bachmann, che sarebbe morta a Roma proprio 40 anni fa. Della Bachmann, Quodlibet pubblica la corrispondenza degli anni 54-55 per la radio di Brema. Il libro si intitola Quel che ho visto e udito a Roma, 124 pagine, 11 euro, tradotto da Cristina Pietra e Anita Raia. Alla morte prematura della scrittrice cominciò un costante processo di riscoperta della sua opera che dell'Italia e di Roma ci dà un quadro vivace e curioso in questo libro, intrattenendosi su vari aspetti, dalla politica alla cultura, ai primi scandali come il clamoroso caso Montesi che cambiò il corso alla storia della Democrazia Cristiana. Sentiamo per esempio dal libro questo riferimento a uno dei miti nazionali che si stava formando in quegli anni, cui faceva cenno anche che Gadda nelle righe che abbiamo ascoltato, la Lollobrigida. L'industria del cinema in bianco e nero di Cinecittà, oggi al secondo posto dopo Hollywood nell'industria cinematografica occidentale, ha regalato all'Italia un nuovo mito. La Gina nazionale, la star numero uno della Repubblica, ribattezzata la Duse del cinema. Una Duse niente affatto divina, bensì molto terrena. In questo momento Gina Lollobrigida, in cui paiono assommarsi tutte le qualità del popolo italiano, non sta girando. Si è fatta rinchiudere per 4 giorni, assieme a 26 pittori milanesi, nella hall di un albergo di Milano, per offrire loro l'opportunità di ritrarla 20 ore al giorno. Alla fine delle sedute acquisterà il dipinto che più le piace. Il suo giudizio sulla pittura italiana, sono stati scelti pittori conservatori e moderni di tutte le correnti, è atteso con ansia. Questo ritratto della Lollobrigida ha risvegliato l'interesse della gente per la pittura. E per quanto uno solo dei pittori si fregerà della corona d'alloro, anche gli altri ritratti, ancor prima di essere terminati, hanno un alto valore di mercato. Una novità, non solo in Italia. Alla domanda degli artisti sul tipo di pittura da lei preferita, l'attrice ha tenuto un discorso in piena regola, sicuramente preparato, ma consono e credibile, concludendo con queste parole. Non so ancora che quadro acquisterò, ma preferirò certamente quello che mi ritrae così come penso di essere sia interiormente che esteriormente. Mi rendo conto che un artista possa accontentarsi di riprodurre ciò che vede. Ma io non capisco la pittura che distorce le cose, piantando un naso là dove di solito ci si aspetta un ginocchio. Si pensi quel che si vuole. Certo è che le parole di Gina riflettono l'opinione del 90% degli italiani e che ancora una volta ha colto nel segno. Ovviamente gli artisti italiani considerano la gara di Milano, che gode della stessa partecipazione unanime di una partita di calcio, come una montatura colossale dell'industria cinematografica. Ma visto che non saranno loro a comparire sotto i riflettori e di fronte all'opinione pubblica, vogliono sfruttare questa opportunità di avvicinare l'arte al cinema. E a questo punto... il confettino. Siamo partiti con Gad in questa parte della trasmissione, concludiamo con un altro popolare scrittore come Andrea Camilleri, che pubblica per i ragazzi Magaria con le illustrazioni di Giulia Orecchia, 15 euro, pubblicato da Mondadori. Questa è la storia di un nonno autore di storie sempre nuove, di una nipotina turbata da un sogno che aprirà ai due un'avventura che si può concludere in diversi modi, quindi con tre finali diversi. Prima di lasciarci vi segnalo un libro che dovete leggere martedì prossimo. Si tratta di Un giorno a Milano, che raccoglie 9 racconti noir ambientati tutti nella città lombarda il giorno 12 novembre. Gli autori sono 9 scrittori diversi, tra i quali Paolo Roversi, che ha avuto l'idea di questa iniziativa editoriale che inaugura una nuova collana calibro 9 di 900 editori. Il volume costa 9,90 euro, 288 pagine, sarà presentato naturalmente il 12 novembre a Milano in via Tenca 7. Lo stesso giorno, il 12 novembre, inizia una nuova iniziativa editoriale del Sole 24 Ore. Potrete acquistare in edicola col giornale il primo volume di una serie di 15 volumi intitolati Classici Compact, filosofia antica per spiriti moderni. Questo primo volume è dedicato a Epicuro e costa, come tutti gli altri, 6,90 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Fabio Cantadori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.